sera 1011. Escluso. Yo. Mischio queste Feral Gun con un litro di martini. Metto fuoco alla tua foto di te spiaggia col bikini. Avessi avuto grinta ti avrei dato una spinta, dipingendo quell'asfalto rosso come la tua tinta. Mi è arrivata qualche voce, mi hanno detto che sei incinta. Io rimango sul balcone e mi scolo un'altra vita. Ricordo quel tuo volto e quanto eri finta, finta come la tua terza che imbottivi come quinta. Ancora un altro bacio, poi dimmi ci vediamo, ma spegnevi il cellulare ogni volta che chiamavo. Non è che io t'amavo, è che mi rendevo conto che sprecavo la mia vita giorno dopo giorno. E chissà se cambierò, se il coraggio troverò di guardarti nei tuoi occhi senza la voglia di ammazzarti. Se riuscirò a parlarti senza darti della troia, io spero che il tuo bimbo nella pancia ora ti muoia. Ci incontreremo un giorno, tu proteggimi dall'alto. Piango mentre canto, metto fuoco a tutto quanto. Sprecare la mia vita è ciò che non farei. Lo so che tu ci sei, dimmi che ci sei. Ci incontreremo un giorno, tu proteggimi dall'alto. Piango mentre canto, metto fuoco a tutto quanto. Sprecare la mia vita è ciò che non farei. Lo so che tu ci sei, dimmi che ci sei. Sono quasi 20 giorni che sto senza la corrente. La sera ultimamente non esco frequentemente. Non posso farci niente, poi la cosa sorprendente, mia madre che continua a rinfacciare continuamente. L'ho lasciato quel lavoro, ero incazzato come un toro. Volevo prendere il mio capo e fargli in testa un foro. Tu puoi gridarlo in coro, il male mi perseguita. La mamma si deprime inginocchiata alla mia sedia. Sono 10 anni che io canto depressione e comprensione, perché sono 10 anni e non cambio situazione. Se RTL la spingesse una canzone, ma sta musica è puttana, non ci va in televisione. Avessi una Mercedes, rimorchio era un casino, perché son tutta alla ricerca dello stronzo fighettino. Ma se a queste puttanelle tu le togli il vestitino, iniziano a tremare, manco fossero un provino. Ci incontreremo un giorno, tu proteggimi dall'alto. Piango mentre canto, metto fuoco a tutto quanto. Sprecare la mia vita è ciò che non farei. Lo so che tu ci sei, dimmi che ci sei. Ci incontreremo un giorno, tu proteggimi dall'alto. Piango mentre canto, metto fuoco a tutto quanto. Sprecare la mia vita è ciò che non farei. Lo so che tu ci sei, dimmi che ci sei. Vorrei avere l'occasione di andare in televisione, sputtanando qualche nome dentro qualche mia canzone. Ma in questa nazione hanno ancora la convinzione che se non ti chiami Eros non puoi dare emozione. Ho sul cazzo copia Marco Carta, amici, perché credono di render tutti quanti più felici. Canzoni d'amore con un alone di perfidia, ma questa non è critica, questa è pure invidia. In ogni pezzo che faccio, pezzi di storia a casaccio, sono pezzi di realtà, non chiamarmi mondo marcio. Non faccio l'americano dentro al ghetto di Milano, avrò il mio quarto infarto mentre dormo sul divano. Ma se prendessi in mano il canne mozze de soprano, sistemerei le cose come fa un vero italiano. Abbi fede, quella giusta, prima o poi tutti la troviamo. E sto sbagliato anche stavolta, mi sparo in mezzo al prato. Ci incontreremo un giorno, tu proteggimi dall'alto. Piango mentre canto, metto fuoco a tutto quanto. Sprecare la mia vita è ciò che non farei. Lo so che tu ci sei, dimmi che ci sei. Ci incontreremo un giorno.